Vai. Intervista ad Angelo Zaccaria, giovedì 23 gennaio 2025. Allora, Angelo, tu ti ricordi quando hai iniziato a partecipare alla Pantera e perché? Bah, io ho iniziato a partecipare praticamente dall'inizio, quindi credo a fine 89 più o meno. Poi non ricordo esattamente quando iniziò a Milano, questo non lo ricordo esattamente, se era fine 89 o inizio 90, perché è notorio che iniziò prima a Palermo e poi... Però iniziai subito quando iniziò a Milano, perché la mia è una storia diversa da quella di tutti gli altri, perché non da tutti, perché qualcuno di noi anche era bello grandicello, cioè io mi sono iscritto all'università nell'80, a Bari. E vivevo a Milano dall'88, quindi io arrivo a Milano già con una traiettoria, diciamo, di militanza, con molte virgolette, e quindi chiaramente partecipo perché mi riconoscevo nel percorso di lotta che si faceva all'interno dell'università in base anche alle mie precedenti esperienze. Anzi, con più curiosità partecipo perché comunque le mie esperienze precedenti a Bari, in modo particolare, erano state molto legate all'ambito del diritto allo studio delle case dello studente e delle mense. E quindi per me l'apertura a un tipo di mobilitazione che invece fin dall'inizio era centrata sulla facoltà, chiaramente era una cosa che mi interessava. Fra l'altro, mi pare che di ricordare che c'era già un collettivo precedente alla Pantera, cioè che non tutto cominciò con la Pantera. Quando io arrivai, Scienze Politiche era già attiva in qualche modo, quindi... E che cosa ricordi delle motivazioni della mobilitazione? Ma le motivazioni della mobilitazione sicuramente erano, vabbè, a parte quelle ufficiali, che però è inutile stare qui a ripetere, perché uno va su Wikipedia e se le vede, sicuramente l'impressione che avevo io, perché c'è un altro elemento, io vissi un po' quella vicenda a cavallo fra Milano e Bari. Perché in quell'epoca, a parte che io avevo la compagna che era a Bari all'università, poi ero appena trasferito non da molto, per cui io facevo dei periodi frequenti a Bari, quindi ero un po' a cavallo fra le due realtà. Per cui l'impressione che avevo è che a Milano in realtà si andasse un po' a rimorchio di quello che accadeva nel resto dell'Italia, cioè quella era un po' l'impressione. Questo non vuol dire negare la forza che aveva Milano. Però credo che sicuramente Milano era un po' sulla scia del movimento nazionale che in qualche modo ci spingeva, e poi c'erano, oltre le motivazioni ufficiali, sicuramente per la dinamica che si installò all'interno della facoltà, c'era anche sicuramente una motivazione di carattere aggregativo e controculturale, se vogliamo, eh. Mi ricordo che una delle attività, infatti, importanti dell'occupazione che ci fu a Scienze Politiche, che fu l'occupazione di alcune aule, per quello che io ricordo, erano queste aule occupate dalla Commissione Cultura, Commissione Allegria, adesso non mi ricordo come si chiamava, però erano quelli che, insomma, si incaricavano di sviluppare soprattutto attività di tipo aggregativo. Quindi quello mi sembrava che fosse un altro pezzo importante della mobilitazione. E poi basta, momenti particolari che io ricordo, beh, le lunghe assemblee in aula 1 sicuramente, e che allora era diversa da come è adesso, perché adesso è cambiato tutto. Allora era l'unica aula lì nel secondo cortile, no? Molto grande, e certamente. Le iniziative erano, vabbè, le manifestazioni che si fecero in quegli anni, in quei mesi anzi, i rapporti con le altre facoltà, con le altre realtà. Mi ricordo i rapporti soprattutto con architettura e con la statale, e quindi riunioni, coordinamenti, iniziative comuni, tutte le volte che si andava lì perché c'erano degli eventi lì. E infine mi ricordo anche una manifestazione in particolare, però sicuramente ce n'è stata più di una, però me ne ricordo una di 8.000 persone, 9.000 persone, che credo fu la più grande che si fece a Milano. E anche qui il confronto con Bari. Io mi ricordo che Bari in quegli anni, io non ero fisicamente presente, però ci fu una manifestazione di 30.000 persone a Bari. E qui torniamo a quella che fu probabilmente anche la natura diversa delle mobilitazioni fra Bari e Milano. Probabilmente a Bari o nel sud in generale, forse si potrebbe fare lo stesso ragionamento non solo su Palermo, ma anche su Napoli, c'era una spinta di massa maggiore che a Milano. Probabilmente perché nel sud una delle motivazioni che animavano il movimento, che era contestare la Ruberti rispetto alla questione dell'apertura ai finanziamenti privati per la ricerca, al sud più che al nord innescava questa paura di ritrovarsi poi emarginati o di vedere i propri atenei declassati, il proprio titolo di studio valere meno. E quindi questa paura del trovarsi fuori dai giochi, in quanto Bari o Palermo erano all'interno di bacini economici meno in grado di generare finanziamenti che poi sarebbero andati all'università, probabilmente questo ha alimentato all'interno delle università del Sud una spinta di massa maggiore rispetto a quella che ci fu al nord e a Milano. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che questo elemento controculturale, che era sicuramente presente nell'occupazione di scienze politiche in quelle aule, era un'aula o due aule che erano lì sulla destra, era presente anche alla statale, mi ricordo bene, forse in maniera anche più marcata. E quindi sicuramente, però, questo direi che forse in tutte le occupazioni probabilmente c'è questo tipo di aspetto, diciamo, aggregativo, che funzionava sicuramente anche da noi, perché a parte le aule, mi ricordo che poi si dormiva, cioè mi ricordo che ho anche dormito dentro, quindi c'era tutto un giro che non può essere distinto dalle motivazioni, diciamo, più direttamente e strettamente politiche. Ti ricordi dei passaggi politici particolari più importanti all'interno del periodo dell'occupazione? Ecco, qui purtroppo la memoria è fallace. Mi ricordo che ci fu un qualche tentativo di boicottaggio, di sabotaggio dell'occupazione, inventando, montando delle controassemblee contro l'occupazione da parte sostanzialmente di CL. Però non ricordo in dettaglio quando, come andò, questo non lo ricordo. Però ricordo che arrivò a un certo punto e partì la Vandea, diciamo. C'è il tentativo da parte delle componenti politico-studentesche ostili all'occupazione di smontare l'occupazione inventando una controassemblea che votasse contro l'occupazione. Però la dinamica, tutti i passaggi, queste robe qua non me le ricordo. Mi ricordo alcuni problemi con i fascisti o con una fascista in particolare, che poi diventerà la moglie, credo, di un noto esponente locale di questi partiti di destra. Però niente di particolarmente problematico che io ricordi, piccole cose, insomma. E tu facevi parte di una delle commissioni che si costituirono, una delle prime assemblee a scienze politiche votò delle commissioni, dei gruppi di lavoro, insomma. Forse la commissione lavoro, forse c'era una commissione lavoro che si occupava di lavoro, ma non sono sicuro, anche questo non è che me lo ricordi tanto bene. Mi ricordo che ero sicuramente presente all'interno di tutti i momenti più importanti, assembleari, agli spiccheraggi nel cortile, e ci si muoveva molto all'interno della città, nelle altre occupazioni. Però se c'era una commissione da quale ho fatto parte, sarà stata quella legata al lavoro, economia, robe del genere, che però non mi ricordo quando fu formata. Sicuramente fu formata dopo all'interno del CPU, per cui lì i tempi adesso non è che io me li ricordi proprio in maniera esatta. E poi un altro momento che sicuramente ricordo fu quello di quell'iniziativa in solidarietà con gli studenti del movimento a Bari, che fu fatta quando praticamente a Bari si verificò questo episodio, che anche lì un corteo di CL-ini e fascisti entrò in rettorato e attaccò il presidio dei nostri, che era fatto di fronte alla CUSL, che era la libreria di CL. Anche lì un tentativo, in questo caso però non con un'assemblea come facevano a Milano, che erano più educati, ma un tentativo paramilitare di attaccare il movimento. Quindi i nostri furono aggrediti. E in particolare la cosa che io trovai particolarmente ignobile fu che aggredirono una nostra amica e compagna, Lina, che era poliomielitica, che è poliomielitica, e che fu ferita in quell'occasione. Quindi io ero incazzato particolarmente perché poi io venivo da quella realtà e avevo continuato ad andare lì a Bari. Quindi mi ricordo anche la forza che aveva il movimento in quel periodo. Per esempio, una cosa alla quale ho partecipato fu l'occupazione della regione, cioè c'era la regione Puglia, Bari, Estramurale, Capruzzi, per chi conosce Bari, vicino alla ferrovia. Migliaia di studenti sotto e un gruppo che occupava su, cioè una cosa veramente forte, che rimasero fino a notte inoltrata, perché lì c'era forte questa, tutta questa componente anche legata alla questione del diritto allo studio, perché in regione c'era l'ente per il diritto allo studio. Questo legato anche alla storia di Bari, che è sempre stata la storia del movimento, ha sempre avuto una forte impronta legata al movimento degli studenti fuori sede, da questo punto di vista, che era un po' quello che aveva dato un'impronta a quello che avevamo fatto noi. Quindi mi ricordavo la forza del movimento a Bari, il rettorato, la facoltà di diritto occupata per mesi e quindi quando avvenne questo episodio fece incazzare tutti, a me forse mi fece incazzare un pochino più degli altri e mi ricordo che sull'onda di questa incazzatura facemmo probabilmente una delle iniziative più belle di solidarietà, perché praticamente murammo la porta della CUSL e unica nota è che probabilmente dal punto di vista tecnico ci sarebbe stata utile una consulenza perché mi ricordo il muro era un po' storto. Comunque il cemento seccò benissimo e quindi sicuramente buttarlo poi giù fu anche fu abbastanza faticoso. Quindi mi ricordo questo episodio perché sicuramente fu uno dei che dettero anche forza al movimento. La data non me la ricordo, però mi sa che era marzo forse, era già abbastanza avanti quando successe questa roba. Era più o meno il periodo dell'assemblea a Firenze, che era appunto inizio marzo. Ecco, ti ricordi di aver partecipato a delle iniziative nazionali? Mi ricordo che non andai mai a Palermo, dove invece andò Andrea, il nostro amico che ora vive a Venezia, che fu il delegato ufficiale. Che era un'assemblea importante, che fu più o meno agli inizi, mi ricordo che lui andò. Io invece andai a Firenze, mi ricordo l'assemblea a Firenze nazionale, che fu credo inizio marzo, e mi ricordo anche lì questa potenza che c'era, insomma, ma anche a parte le assemblee, gli scazzi, le posizioni diverse, perché poi adesso andando a rileggere le cronache. Già al momento dell'assemblea di Firenze si erano delineate alcune divaricazioni, perché era già stata proposta una mini riforma della Ruberti, dando un po' più di rappresentanza agli studenti. La componente più moderata dei collettivi, dei movimenti, la FGC, eccetera, eccetera, appoggiava la riforma, noi altri no. Per cui in quell'assemblea già si cominciavano a delineare un po' anche queste differenze di divaricazioni. Però io di quell'assemblea, onestamente, io ricordo soprattutto che c'era una marea di gente. Che in tutta la città c'erano facoltà dove dormivano persone a terra, quindi sacchi a pelo, questo mi ricordo. Mi ricordo le serate di cazzeggio, mi ricordo una serata che c'era un'assemblea, un'aula piena di gente con un siciliano simpaticissimo che probabilmente avrebbe avuto un futuro come comico, che faceva degli scherzi, faceva ridere tutti. Poi mi ricordo il momento, ci furono dei momenti anche molto pop, però che io ricordo ancora come molto belli. Mi ricordo a un certo punto che si cantò O soldati innamorati, insomma, io che ho oltretutto origini meridionali e la mamma mezza napoletana, sicuramente ho vissuto momenti di commozione. Quindi mi ricordo tutta la roba di Firenze, la roba di Firenze più che i momenti politici di per sé, mi ricordo questo aspetto di carattere aggregativo, di incontro e i numeri che erano veramente importanti, insomma, cioè si vedeva che il movimento era ancora vivo, era ancora forte, era ancora. Dopodiché, che cosa lasciò e quell'assemblea, che cosa successe dopo, questo onestamente non me lo ricordo, però sicuramente mi ricordo che fu il momento più importante a cui partecipai dei momenti nazionali. Non mi ricordo se andai invece a manifestazioni nazionali, mi sa di no. Perché ce ne fu poi una a Napoli, sempre a marzo, ma mi sa che io là non andai. Hai fatto poi un bilancio politico della Pantera? Il bilancio politico della Pantera è sicuramente un bilancio che non può che essere retrospettivo, nel senso di includere anche il pezzo prima della Pantera, cioè. Ora io lo metto questo discorso, non so se può essere interessante. Io ho iniziato a fare attività politica alla fine degli anni 70. Quindi io ho iniziato in un periodo abbastanza plumbeo, dove, per esempio, uno dei temi forti del movimento era la questione del carcere, della detenzione politica, delle carceri speciali e della prigionia politica. Mi ricordo come un momento rappresentativo di quella fase politica la manifestazione a Voghera del luglio dell'83 contro il carcere speciale femminile, che fra l'altro finì con ferocissime cariche, un sacco di arresti, un processo poi con decine di imputati. Cioè, mi ricordo quel periodo là, che fu il periodo dei miei primi anni. E un periodo un po' cupo, un po' eroico se vogliamo per alcuni versi, però un po' cupo e incentrato su questi temi. Poi la svolta è nell'85, col movimento dell'85. Il movimento dell'85 è probabilmente il primo movimento significativo di massa studentesco dopo gli anni del riflusso e della grande repressione. Quindi quello fu veramente il giro di boa. Per me la Pantera consolida quel giro di boa, perché arriva 5 anni dopo, ha un'impronta più universitaria che fra i medi, perché se non ricordo male l'85 nacque e si caratterizzò più come un movimento di studenti medi, e quindi la Pantera consolida, rafforza e rilancia in avanti quel giro di boa. Infatti poi dalla Pantera il bilancio per me è comunque positivo, perché là si forma una generazione di militanti, di attivisti e di attiviste, che poi continueranno a fare attività politica in vari ambiti e in vari luoghi, soprattutto nei centri sociali, perché poi qua si incrociano anche le cose, no? Un anno prima della Pantera c'è lo sgombero del Leoncavallo, sede storica, nell'agosto dell'89, la Pantera arriva pochi mesi dopo alla fine, no? Quindi si intrecciano tutte queste fasi, cioè l'apice della Pantera a Milano coincide con l'apice della fase del Leoncavallo, della ricostruzione, anche lì momento epico ed eroico, vi ricordate? Chi è di Milano se lo ricorda, insomma, cioè, il Leoncavallo ricostruito, la grande sottoscrizione che fu fatta, un momento anche ancora unitario perché le realtà erano ancora... E quella realtà, mi ricordo, la realtà del Leoncavallo, che in quel periodo era al suo apice, all'apice dell'energia, della forza, della risposta a questo sgombero e la semidistruzione del centro, si incrocia con la Pantera, col movimento, e c'è un'interazione fortissima. Infatti, io mi ricordo, per esempio, molti di architettura partecipano alla ricostruzione molti militanti della Pantera di architettura partecipano alla ricostruzione del Leoncavallo. E mi ricordo anche che anche noi eravamo. Comunque giravamo moltissimo all'interno del centro sociale, per cui sicuramente la Pantera ha rilanciato in avanti quella nuova fase di mobilitazione, quel ritorno sulla scena di movimenti di massa anche negli anni futuri, almeno fino agli anni del movimento contro la guerra Iraq, che fu nel 91, poi ci fu l'autunno dei bulloni, insomma, successero un po' di cose in quegli anni, però sicuramente per tutti gli anni 90 quell'onda della Pantera si è ancora vista. Dopodiché il bilancio è più che un bilancio, è un punto interrogativo, e cosa sia successo dopo, perché insomma qua stiamo parlando del 91, 92, 90, insomma, ogni tanto poi guardando il calendario ti rendi conto che sono passati 34 anni, sono tanti. Però questo mi sa che esula dall'intervista, Certo. cioè che cosa è successo o non sia successo dopo. Dopo l'occupazione hai continuato a fare attività politica col CPU per quanti anni? Io ho continuato a fare attività politica con il CPU, che è stata una delle gloriose eredità di quella mobilitazione della Pantera a Scienze Politiche, fino al 94. Nel 94 io... La mia anche qui è una storia un po' particolare. Esco dal collettivo per una ragione principale. La ragione principale è che comunque avevo 32 anni, ok, tirarla lunga, ok, fare l'iper studente fuori corso, però c'è un limite a tutto, quindi io ormai ero un po' agli sgoccioli. Fra l'altro mi ero rimesso a studiare, stavo dando gli esami, fra un po' avrei fatto anche la tesi, di lì a poco, quindi il motivo principale per cui esco è che stavo per chiudere il mio ciclo universitario. Però ci fu anche un motivo più legato alla storia del CPU, e cioè che all'interno del collettivo si era creato un dibattito promosso da alcune militanti donne sulla necessità di innescare all'interno del collettivo dinamiche più circolari, più orizzontali, di mettere in discussione anche alcune forme di leaderismo, e in questo contesto anche il ruolo dei compagni maschi, no? All'interno di questa creazione di dinamiche leaderistiche. E da Da quello che io capii, la critica non puntava al fatto che gli anziani maschi se ne andassero via, perché era più una richiesta di cambiare le modalità, quella per come l'ho interpretata. Però nel mio caso si incrociò col mio desiderio, col fatto che io comunque me ne sarei andato di lì a un anno perché mi sarei laureato, e quindi a quel punto anticipai questa scelta e me ne andai. Però continuai a fare attività politica, sostanzialmente. Non più nell'università, però in altri ambiti, centri sociali, perché comunque ho continuato ad abitare in una casa occupata. Poi di lì a poco inizia tutta una parentesi di militanza legata alle questioni del precariato, che va poi dal 96-97 fino all'inizio degli anni 2000. Però sicuramente, per dirla ovviamente, anche per me, quello della Pantera e di quello che è seguito dopo rimane uno dei ricordi più belli di tutta la mia storia di militanza, anche qui a Milano, sicuramente, perché comunque non era solo politica, era anche socialità, erano relazioni, era un volano di rapporti, e che comunque nel caso di scienze politiche ha determinato un'onda lunga che è durata un po' di anni, anche se poi col tempo è diventato poi una cosa molto diversa da quello che era la Pantera, perché col tempo poi il CPU è diventato un collettivo molto connotato ideologicamente, mentre invece il movimento della Pantera Scienze Politiche tutto era fuorché connotato ideologicamente, perlomeno in modo unidirezionale, una cosa molto variegata, dove c'erano le donne, c'erano quelli della Commissione Allegria, c'erano i controculturali, insomma, c'era un po' di tutto, c'erano i militanti dei vari gruppi, c'erano quelli dei centri sociali, quelli che erano più di quel centro sociale che di quell'altro, cioè era veramente un grande calderone. Poi col tempo, come in tutte le cose, poi si sfoltiscono i numeri e poi si modificano anche o si connotano, si caratterizzano di più le posizioni. Però qui stiamo parlando già del 95, 96, 97, di anni già molto posteriori al movimento della Pantera. E tu ti ricordi delle azioni in particolare promosse dal CPU, delle mobilitazioni, delle iniziative? Le CPU mi ricordo sicuramente, a parte gli episodi della Pantera, beh, mi ricordo i seminari, per esempio mi ricordo dei seminari sugli anni 70, questo mi ricordo, dove furono invitati anche esponenti dei movimenti di quegli anni, questo mi ricordo. E poi mi ricordo le controguide, certo, che venivano pubblicate ogni anno, che iniziavano ad essere pubblicate, non so in quale anno esattamente, ma che comunque era uno strumento abbastanza, come dire, di propaganda importante. Mi ricordo le attività delle commissioni, in particolare di quella di cui facevo parte e di cui credo facessi parte pure tu, che era la commissione lavoro, che Sì. aveva un'attenzione particolare a tutti i processi di ristrutturazione in corso. Forse anche all'incipiente dibattito sulla precarietà, anche se quello poi inizia dopo. Una nota autocritica, se vuoi, invece, guardando anche la mia storia personale. All'epoca noi quello che dicevamo è che l'università era sostanzialmente una truffa, un parcheggio per futuri disoccupati. Ecco, probabilmente tagliavamo le cose un po' troppo con l'accetta, perché per una ragione molto semplice, nel mio caso, per esempio, io per caso incrociai un avviso di selezione per lavoratori socialmente utili in un grande ente pubblico statale, un ente centrale dello Stato, che trovai per caso una fotocopia attaccata sui muri dell'allora ufficio del lavoro che era in via Macchi, vicino alla stazione centrale. Ebbene, la selezione era aperta a laureati in economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche, o laureandi con 2 terzi degli esami. Se io partecipai e poi diventai col tempo, fui regolarizzato, diventai dipendente di quell'ente, fu perché ero laureato. Certo. Quindi, probabilmente la questione che la laurea non serviva proprio un cazzo e che noi eravamo tutti futuri disoccupati, forse era un po' una forma di schematismo che, però, vabbè, insomma, faceva parte del calderone di quel periodo delle nostre vite. Beh, in parte all'ultima domanda mi hai già risposto. Sei fatto negli anni successivi un bilancio politico dell'esperienza della tua esperienza nel CPU. Ah beh, E certo. dell'esperienza del CPU ovviamente a scienze politiche. Ma l'esperienza, ripeto, è positiva non solo per tutte le ragioni che io ho detto, ma anche per alcune note che forse sono forse un po' troppo di carattere personale, però che le mettiamo pure. Dopo la fase universitaria, che per me è importante proprio perché si innesta sulla mia precedente esperienza a Bari, solo che lì esco dalle case dello studente, dalle mense, che avevano caratterizzato quel periodo, di cui pure ho un ottimo ricordo, e si entra in una dinamica di facoltà. Quindi io valorizzo quell'esperienza non solo per quello, per un rapporto anche di tipo diverso col mondo universitario, perché un conto è fare lotte sui servizi, sulla mensa, sulla casa dello studente, sulla loggia universitaria, un conto è fare un'esperienza nelle facoltà e anche un tipo diverso anche di contenuti. Ma lo ricordo bene quel periodo, tanto più per quello che poi è accaduto dopo, nel senso che io poi, quando esco dal collettivo, fra il 94 e il 97, 96, quando poi inizia tutta la fase dei collettivi contro la precarizzazione, si innesta un altro ciclo. In quei 2 anni io resto avviluppato in quella dinamica di militanza nei centri sociali, che però era più militanza negli scazzi dei centri sociali. Quindi resto coinvolto in tutte le polemiche di quel periodo. Mi ricordo che c'era tutto questo dibattito sull'impresa sociale, tutta quella polemica che venne introdotta da una proposta portata avanti da alcuni soggetti, che i centri sociali mettessero nell'appropriazione il modello dell'impresa sociale, quindi di attività di tipo mutualistico, la creazione anche di fonti di reddito per i militanti dei centri sociali, e mi impelagai in questa discussione, che pure era la parte più degna di quel dibattito e di quegli scazzi, perché c'era un'altra che io invece rivendico ancora meno, che era tutta la dinamica dei traditori moderati, quelli che avevano fatto la trattativa, quelli che avevano mollato il Leoncavallo, insomma, che invece su quella io la rivendicherei un po' di meno, la metterei un po' in discussione. Non che non avesse delle basi, però secondo me aveva meno. Per cui, guardando ai miei anni successivi, all'esperienza universitaria, ancora più la guardavo con occhi positivi, perché perlomeno quella era un'esperienza in un ambiente sociale di massa. Era comunque aveva un elemento più costruttivo, mentre invece mi sembra che in quei 2 anni dopo io sia finito dentro una dinamica che era più una dinamica autoreferenziale di ceto politico, di microceto politico dei centri sociali, anzi di scazzi all'interno del microceto politico. E questo mi faceva guardare con occhi ancora più positivi all'esperienza precedente, quella del CPU, della Pantera, del collettivo Scienze Politiche, anche se ovviamente con la consapevolezza che per ragioni ovvie di carattere biografico, biologico, con l'esperienza lì era chiusa, perché comunque era parte del mio passato. Certo.